Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso Resinovic, anche gli accertamenti genetici ordinati dalla procura su alcuni reperti potrebbero essere oggetto di un incidente probatorio. Ieri quello per raccogliere le dichiarazioni di Strepin. Ancora ritardi per l'avvio del nuovo ospedale di Pordenone. L'apertura, a quanto pare, slitterà dopo l'estate. Oggi un sopralluogo di tutti i sindacati della sanità. Sarà discussa domani e votata il 1 luglio la mozione di aggiornamento del programma che ricompatta il centrodestra. Intanto le opposizioni depositano una mozione che chiede alla Giunta di impegnarsi per la promozione della pace e del riconoscimento dello Stato di Palestina. E con una cerimonia nella caserma di Campo Marzio a Trieste, la Guardia di Finanza celebra il 251esimo anniversario della sua fondazione. Legambiente promuove la qualità delle acque in Friuli Venezia Giulia. Tutti e 10 i rilevamenti di Goletta Verde evidenziano valori degli inquinanti al di sotto dei limiti previsti dalla legge. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic. Il caso Resinovic ancora in primo piano all'indomani dell'incidente probatorio che ha raccolto le dichiarazioni di Claudio Strepin. Anche gli accertamenti tecnici genetici su alcuni reperti chiesti dalla procura potrebbero divenire oggetto di un nuovo incidente probatorio. Lo ha detto ieri, uscendo dall'aula, l'avvocato di Strepin, Giuseppe Squittieri. Sentiamo. Per quanto mio è difficile che una persona sola o pochi abbiano potuto combinare tutto questo disastro. Un uomo da solo non fa quel lavoro, ha detto Claudio Strepin, assediato dai giornalisti tentando di uscire dal tribunale in cui era entrato 5 ore e mezza prima per l'incidente probatorio. Sebastiano Visentin sa tutto quello che è successo alla moglie Liliana, così Strepin, 86 anni, amico speciale della donna trovata morta nel gennaio del 22 avvolta in sacchi neri dell'immondizia, ha confermato di fronte a PM e parti offese la sua versione dei fatti. Ha ribadito ancora una volta, spero per lui che non sia colpevole, nessun colpo di scena, ridirò tutto quello che so ancora una volta, e ce lo aveva anticipato già la mattina presto, prima di entrare in aula. Io non ho altro da dire, io devo solo ripetere per i sordi quello che ho dichiarato da 3 anni e mezzo a questa parte, non c'è altro. È probabile, ha dichiarato Strepin, anche in questo caso non per la prima volta, che Visentin stia coprendo qualcuno. Il caso venne inizialmente archiviato come suicidio, poi riaperto, nuova autopsia per la procura. Ora è delitto e c'è un assassino, il marito Sebastiano Visentin, unico indagato, che ieri in aula ha ascoltato silenzioso per poi scappare dai cronisti. Al quotidiano Il Piccolo ha dichiarato: in udienza ho sentito cose non vere, non ho potuto dire nulla, ma in futuro pretenderò rispetto per lei, che non può difendersi. Ma cosa succede ora nel processo? C'è anche l'altra situazione, quella richiesta dalla procura in ordine agli accertamenti tecnici, genetici, dattiloscopici e altro, che attende di essere eventualmente approvata con le forme dell'incidente probatorio. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La tenuta della maggioranza in regione sarà discussa domani e sarà votata il 1 luglio. Una mozione di aggiornamento del programma di governo con la quale i partiti di centrodestra vogliono lasciarsi alle spalle le polemiche scoppiate dopo le dichiarazioni di Ciriani. Il tema del terzo mandato non c'è, e quanto alla sanità ciò che si richiede al presidente Fedriga è testualmente la prosecuzione del processo di riforma del sistema per garantire una migliore e puntuale risposta ai bisogni di salute del cittadino. Questo è il riflesso dei due argomenti che maggiormente avevano innescato il duro confronto di primavera all'interno della maggioranza sulla mozione che ha per oggetto l'aggiornamento del programma di governo, che viene protocollata oggi con le firme dei capigruppo di maggioranza e che va in discussione domani al Consiglio regionale. Una messa a punto del programma di governo sotto il segno della continuità. Nella premessa si legge che all'interno della maggioranza c'è stato un confronto che ha portato a riconoscere in Fedriga il garante ed arbitro della coalizione e ad esprimere la volontà di rilanciare l'azione di governo. Tra i cambi di marcia più significativi, quello sugli enti locali, si prevede un'accelerazione sulla legge elettorale per le province, ma anche di rivedere la normativa sul voto per la regione che, dice la mozione, ha evidenziato evidenziato criticità che sono poi legate, come era emerso dal dibattito nei mesi scorsi, alla rappresentanza di consiglieri che la legge garantisce a chi perde le elezioni, giudicata eccessiva da diversi esponenti del centrodestra. Altro cambio di passo a proposito delle infrastrutture. Il piano paesaggistico regionale risulta troppo vincolante per alcune aree e, secondo la mozione, rivederlo diventa prioritario. Il presidente viene infine impegnato, citiamo ancora il documento, a prendere atto che tutte le scelte troveranno ancor più ampio spazio di confronto in seno alla maggioranza e a livello territoriale. Su questa mozione il presidente Fedriga potrebbe porre una questione di governo, l'equivalente, semplificando al massimo, della questione di fiducia nel Parlamento nazionale. Il voto sulla questione di governo è previsto per il 1° di luglio. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. E le polemiche interne alla maggioranza erano iniziate lo scorso maggio dopo alcune dichiarazioni critiche del ministro Ciriani sui tempi di apertura del nuovo ospedale di Pordenone. Proprio questa mattina i sindacati hanno compiuto un sopralluogo al nosocomio per cercare di capire quando verosimilmente ci potrà essere il trasferimento dall'ospedale vecchio. Pierluigi, benvenuto, FPCGL. Come è andato questo sopralluogo? Quali novità in merito a tempistiche e cronoprogramma? Allora, lo sopralluogo è andato bene, c'è una struttura ospedaliera veramente all'avanguardia. Dobbiamo dire la verità che è una struttura veramente molto molto bella. C'è una grande potenzialità sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista delle attrezzature. Sono anche attrezzature veramente che pochi ospedali hanno. Come cronoprogramma, purtroppo, ma questo un po' si sapeva, fino a fine settembre, primi di ottobre non si riesce a entrare perché stanno terminando i collaudi. Poi il problema sarà il personale. Noi speriamo che un ospedale nuovo sia attrattivo per chi arriverà da fuori, che quindi vorrà lavorare in un ospedale bello come questo. Vi hanno dato qualche aggiornamento su quali saranno i primi reparti a trasferirsi? Pensiamo anche al materno infantile. Allora, i primi reparti, come da cronoprogramma iniziale, sono le medicine e il pronto soccorso, subito dopo il materno infantile perché necessita di lavorare in spazi comodi, dove sono adesso non è possibile. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno depositato una mozione che chiede alla Giunta di impegnarsi per la promozione della pace e del riconoscimento dello Stato di Palestina. Verrà discussa in Consiglio regionale dopodomani, il 26 giugno, la mozione 152 firmata da tutti gli esponenti dell'opposizione di centrosinistra. Chiede alla Regione di impegnarsi per la promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Prima firmataria la consigliera Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra. Tra le richieste alla Giunta regionale c'è anche l'impegno a promuovere, in sede di conferenza delle regioni, di cui Federica è presidente, una posizione comune tra le regioni italiane a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina e l'appoggio a progetti di cooperazione internazionale con finalità di pace. In riferimento alle parole di Tajani, di Mattarella e alla posizione del Vaticano nelle premesse, servono anche a cercare la massima condivisione possibile con la maggioranza, afferma Pellegrino. Abbiamo messo da parte le nostre bandiere per un testo laico, semplice e condivisibile. Auspichiamo che anche la maggioranza possa farlo. Nicola Conficoni del PD ha definito la reazione di Israele dopo il 7 ottobre sproporzionata, disumana e controproducente perché alimenta la spirale di odio e violenza. La Regione Friuli Venezia Giulia deve assumere una posizione ferma, dice Rosaria Capozzi del gruppo Misto 5 Stelle. È importante ritrovare la via della diplomazia e abbandonare quella muscolare. Furi Onsel di Open Sinistra FVG, che non aveva appoggiato una precedente mozione perché non conteneva il cessate il fuoco, oggi sottoscrive il documento definendolo un testo di umanità contro la disumanità e la barbarie. Criticato dagli esponenti politici anche il ritorno della nazionale israeliana di calcio allo stadio Friuli. Calare una scelta di questo genere sulla città per due volte nell'arco di un anno e senza tener conto della posizione del comune è una scorrettezza istituzionale, afferma Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia. Sostenuta infine la necessità di equiparare dal punto di vista sportivo il trattamento della Russia e quello di Israele. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La situazione del meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 26,5 gradi, Gorizia 29,5, Udine e Pordenone 28,5, Tolmezzo 25,5, Tarvisio 25, Forni di Sopra 23,5, Sappada 21, Piancavallo 20,5, Monte Lussari 17, Monte Zoncolan 15,5, Lignano 29,5, Grado 27. Le previsioni dell'ARPA oggi pomeriggio su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana poco nuvoloso, venti di brezza. Domani su pianura e costa sempre cielo sereno con caldo afoso, sulla zona montana invece poco nuvoloso. I comuni dell'altipiano carsico Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino, per voce dei rispettivi sindaci Igor Gabrovets, Monica Krovatin e Tania Cosmina, rivolgono un appello alla cittadinanza affinché venga adottato un utilizzo responsabile e sostenibile dell'acqua. L'invito è a limitarne i consumi, prevenire gli sprechi inutili e privilegiare comportamenti parsimoniosi ed efficaci. L'appello si rende necessario a fronte del perdurare della situazione di siccità e a seguito della comunicazione dell'acquedotto del Carso, la società che gestisce il servizio idrico locale, che ha segnalato un consumo idrico elevato nei tre comuni dell'Altipiano, in particolare per usi irrigui e potabili. Le attuali condizioni climatiche, caratterizzate da temperature alte e dalla carenza di precipitazioni significative, aggravano ulteriormente la criticità. La raccomandazione ha un carattere temporaneo e potrà essere aggiornata in base all'evolversi della situazione climatica e idrica. Un deciso no al possibile scorporo dell'indirizzo linguistico del Carducci Dante di Trieste per accorparlo al liceo Petrarca della medesima città arriva dalla rappresentanza sindacale unitaria del Carducci Dante. L'RSU attacca l'ufficio scolastico regionale e l'assessorato regionale all'istruzione, definendo l'intenzione di scorporo un mero atto burocratico che cancellerebbe la storia significativa di un indirizzo liceale che negli anni ha visto un crescente numero di studenti anche grazie al lavoro e all'impegno dei docenti. Ci impegneremo a contrastare tale progetto e chiediamo infine all'ufficio scolastico regionale e all'assessorato di bloccare tale operazione e sostenere invece chi da anni lavora nella scuola per far crescere questo come gli altri indirizzi del liceo Carducci Dante, scrivono i rappresentanti della RSU del liceo Carducci Dante di Trieste. Goletta Verde ha presentato questa mattina i dati sulla qualità dell'acqua delle nostre coste e dei nostri fiumi. Sentiamo com'è la situazione. Ha preso il largo dal Golfo di Trieste la Goletta Verde di Legambiente, la campagna di monitoraggio che da oltre 30 anni valuta lo stato di salute delle acque d'Italia. 10 campionamenti effettuati a inizio giugno in Friuli, Venezia Giulia, 6 in mare, 4 alle foci dei fiumi. Le rive di Trieste, Barcola e Sistiana, Marina Iulia, Grado e Punta Sdobba, la foce dello Stella nella laguna di Marano e le aree di Lignano Sabbiadoro e Pineta. Tutte promosse, i livelli di inquinamento microbiologico sono entro i limiti di legge. Elisa Turiani, portavoce di Goletta Verde. La fase dei monitoraggi consiste nel prelevare dei campioni alle foci di fiumi e canali nei quali magari sono state segnalate delle criticità o che sono attenzionati da tanto tempo, e questi campioni ci permettono di valutare quello che è lo stato dell'inquinamento da batteri fecali, quindi enterococchi ed escherichia coli, che sono poi gli indicatori di situazioni potenziali di scarsa o assente depurazione. Restano però delle criticità, sottolinea il presidente regionale di Legambiente, Sandro Carnielutti. Primo è che abbiamo ancora sistemi fognari che scaricano nei corsi d'acqua direttamente, senza previa depurazione, nel bacino scolante della laguna. Secondo obiettivo, abbiamo ancora troppi piccoli depuratori che sono simili a vasche IMOF, che hanno scarsa efficienza depurativa. Terzo obiettivo, dobbiamo rallentare l'acqua che va a mare, per due motivi. Uno, rispetto agli eventi estremi, soprattutto siccitosi, dobbiamo trattenere l'acqua a monte. Due, molto spesso le acque che vanno nei sistemi fognari durante precipitazioni intense non possono essere depurate per i quantitativi, vanno a mare e li troviamo, no, escherichia coli, enterococchi fecali. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli, Venezia Giulia. A inizio luglio uscirà il numero 120 di Zonzo Socia, un periodico particolare transfrontaliero e plurilingue che racconta quanto accade ai due lati del confine tra Gorizia e Nova Gorizia. Fondato da Dario Stasi, dopo un periodo di crisi in cui ha rischiato di chiudere, è stato rilanciato proprio in occasione di Go 2025 sotto la guida di Andrea Bellavite, che è stato ospite della nostra trasmissione Buongiorno Regione. Un giornale di frontiera che racconta la vita del goriziano da entrambi i lati del confine. È Isonzo Social, periodico trimestrale bilingue, italiano e sloveno, che da quando è stato fondato nel 1989 dal giornalista goriziano Dario Stasi, ha l'obiettivo di superare le barriere nazionali, ma anche culturali e linguistiche. Un progetto sorto quando ancora c'era l'ex Jugoslavia, ma che alla morte di Stasi nel 2023 rischiava di arenarsi proprio prima di Go 2025. Anche per questo un gruppo di giornalisti, capitanati da Andrea Bellavite, ha deciso di rilanciarlo. Ci siamo trovati con la redazione e abbiamo detto qual era il sogno di Dario Stasi, di arrivare a un qualcosa come la capitale europea della cultura e chiudere il giornale proprio nel momento in cui Nova Gorizia con Gorizia vengono nominate capitale europea della cultura. Ci è sembrato veramente un qualcosa di non giusto. Se prima Isonzo Social aveva una redazione a Gorizia e riceveva contributi giornalistici da oltre confine, il nuovo piano punta a essere ancora più transfrontaliero. Oggi c'è una redazione comune, circa 30-40 persone tra giornalisti, scrittori che lavorano insieme tra Nova Gorizia e Gorizia. C'è un direttore in Slovenia che si chiama Miha Kosovel, un direttore in Italia, e insieme si produce il giornale che è rigorosamente plurilingue, cioè c'è lo sloveno, c'è l'italiano, ma c'è anche il friulano. Non solo, sul portale online si può accedere alle traduzioni di ciascun articolo anche in inglese e in tedesco, un progetto che mira ad accompagnare Go 2025, iniziativa che, secondo Bellavite, oltre agli eventi culturali, costruisce una nuova idea di futuro. Nel quale ci si concepirà in modo completamente nuovo, da goriziani, non solo chi vive in Italia o chi vive in Slovenia, da goriziani che vivono insieme su un territorio straordinario. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la bonifica dell'area delle terme romane di Monfalcone. Il progetto riguarda un'area collocata a sud-est del complesso termale, oggi inutilizzata. Il piano, dal valore complessivo pari a oltre 4 milioni di euro, sarà interamente finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un parco urbano attrezzato che si integra con il vicino complesso termale. Il prossimo passo sarà ora l'approvazione del progetto esecutivo, cui seguiranno la procedura di gara e l'avvio dei lavori, previsto entro la fine dell'anno. E la Guardia di Finanza ha celebrato oggi a Trieste il 250esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia nella caserma di Campo Marzio. Sentiamo l'intervista al generale Nieddu, comandante della Guardia di Finanza in regione. Allo stato attuale non siamo aggrediti, ma laddove ci sia una tale dinamicità economica come quella dimostrata dalla città di Trieste, sicuramente ci possono essere profili di aggredibilità. È qui che il valore dell'attività preventiva che noi cerchiamo di svolgere, onde intercettare anticipatamente i sintomi di potenziali infiltrazioni e interromperle prima che producano danni. Ad un anno dal suo insediamento, che situazione ha trovato nella regione? Ma è una regione che è sostanzialmente connotata da un diffuso senso della legalità e che con ogni buona approssimazione è capace di respingere già per indole l'illegalità. Ma questo non significa che non si debba prestare particolare attenzione, soprattutto con quella che è una connotazione della Guardia di Finanza particolare, che è quella dell'attività di prevenzione, di vigilanza, controllo e quindi di prevenzione di eventuali fenomeni illegali. Una piccola isola felice rispetto ad altre regioni dove la criminalità è molto infiltrata? È una regione che sicuramente gode di una situazione direi buona come patologie, che però come tutte le situazioni buone deve essere particolarmente vigilata e controllata per evitare che possano inserirsi fenomeni criminali, visto e considerato anche, diciamo, come accennavo prima, la dinamicità del territorio dal punto di vista economico e di investimenti. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Marco Barone è il nuovo direttore della struttura complessa di chirurgia generale degli ospedali di Gorizia e Monfalcone. Ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di responsabile della struttura semplice di chirurgia laparoscopica avanzata e più volte quello di facente funzioni di direttore della stessa struttura complessa. È stato inoltre nominato a capo del gruppo di lavoro istituito da Asugi per l'ottimizzazione delle liste d'attesa chirurgiche e dei processi del blocco operatorio.